scrivo questa lettera che Dio solo sa cosa vuol dire. Per me è l'unico modo, l'unica maniera per esprimermi. E non importa se è antico e poi se non si usa più. Così la leggerai tutte le volte che vorrai tu. La mano un po' mi trema, il foglio sembra una nuvola. Per i concetti semplici il cuore sai si complica. È tanto che noi stiamo assieme e vorrei dirti che ho ancora voglia di ballare e far l'amore assieme a te. Perché? Perché? Sono innamorato, sono innamorato, lo sono sempre più. Innamorato, lo sono ancora di più. Ricordo quando ci incontrammo eri già bellissima. Di primavera una stazione, un treno che scalava qua. Dentro questa vita un po' impacciata, un po' lunatica, hai portato luce, linfa, pezzi di felicità. E ogni volta che ti guardo, che ti penso, sento sempre solo che sono innamorato, sono innamorato, lo sono sempre più. Questa lettera per dirti quello che spesso si dimentica di dir per abitudine. Mostrala quando saremo vecchi, in quel tempo in cui staremo sempre assieme e rideremo di tutto. Io e te ci rideremo su, ci rideremo su, ci rideremo su. Innamorato, sono innamorato, lo sono sempre più. Innamorato, lo sono ancora di più.